Il gioco si chiama Locomatrix ed è più che un gioco, in un certo senso è una piattaforma, quindi possiamo pensare un po' come una PlayStation o un Wii, ma che funziona su un telefonino cellulare normale. L'unica cosa che serve in più è un'applicazione che abbiamo sviluppato, che si può scaricare su qualsiasi telefonino, e il GPS, che può essere o già sul cellulare, se è un nuovo cellulare, oppure si può comprare un dongle tipo per 30 sterline, che sono più o meno 50 euro. No? E poi da quel momento in poi si possono scaricare giochi e livelli che funzionano con il GPS, quindi piuttosto che controllare cosa succede sullo schermo schiacciando bottoni sul telefonino, si controlla correndo o camminando in giro per un parco o per una città. È una piattaforma nel senso che lo sviluppo e il linguaggio di sviluppo sarà Java, ci saranno degli API aperti alla comunità di sviluppatori, piccoli o grandi che siano, e vogliamo incoraggiarli a creare qualunque gioco possano immaginare, pubblicarlo. E poi eventualmente, se riescono a creare abbastanza traffico, anche trarne un pochino di soldi, diciamo, di ricavi.